Pronto? Attenzione sul binario 12, in partenza per Cagliari, Grivani si cambia. Vai. Tagliato di Grisci. Ancora di più. Sembra un bel. la miglioresca che c'è, quella lì. Quella ha senso anche da lontano? Quella è naturale, capito? Un'esca naturale è buona perché ha questo odore e poi lascia questa cosa rossastra attorno, capito? Quindi, perché vivono dentro le spugne, no? Vivono dentro le spugne, alcuni si fanno proprio la tana nelle spugne, gli altri invece si mettono proprio prendono la casetta e gli altri sono dei saprofitti, no? Sono come il paguro Bernardo, per intenderci. E si prendono la casetta e poi gli va la spugna sopra, quindi copre tutta la casetta, invece alcuni sono troppi la spugna e sono dentro. Ho capito. Va bene. Alla gallina. Mi faccio una sveglia con la gallina. Vuole fare chi? No, fate chi, con la gallina di un muro gordo, Trento, i lancetti, no? A corda e me. Ah, di chi si è antichi, da. Ho capito. Ma io avevo una che faceva chi, ma vedete il pamburuto. Grazie Giampaolo, va la gliadina, va. Ma gli ancetti fa gli addini disegnati dentro, no? E poi finiva che fa un capo e lo muovi. Proprio come ti dice nei secondi si muove un capo in base ai secondi. Sì, ce la conosco. Ma te ne immagini che faceva male il dito, sai cos'era? Era una spina di carciofo. Ma ti divisi. Cromata è giallina Trento, Merito è gialla, lo valuto su cromato di cristallo, te la metti gialli che sono antichi? Sì, ti agio con questo si comatti so. Sì, ce l'avevo anche mamma, aveva la credenza celeste con il vetro tutto quanto attorno e la sveglia in mezzo. Sveglia. Non c'è altro che poteva dormire, a casa bella brutta, ma quando che silenzio si fa tipo bomba orologeria. È curioso, è vero? Certo, già mi sembrava il maggior gatto, una bomba era. Era? Buono, la verità. A sabuccio, battattini, vabbè, la carne. 4-5 salse, la verdura, poi quella da bove di Oda, rucola, poi non mi ricordo che cosa, insomma la piena. E da bove ti vuole tubire la bacchiglia? Come? Da bove ti tocca più anche la bacchiglia da bove? E poi se lo prendere sempre, dopo mangiato tutti i giorni. Cazzo tutti questi cosi che abbiamo su Trento, mi mancava buono fatto un balenaro, tutto chi te l'ha fatto. Vabbè, ma se tu conti in un pasto con le cosine le mangi, la verdura non la mangi. Certo, le patatine non la bucio un montone, la bucio un poco. E le salse più che altro che ha messo. Ecco, bravo. Esatto. Quello lì è più di un pasto completo. Più di mangiarti un primo, una minestra, un secondo, vedi che bravo. Non è tanto gli assi bocca, tutti digne. Ma mi piace, però fatto da quello da cosa, anche lì lo fa buono, però dopo con l'aperto Marco, che è Marco proprio marocchino di Marrakesh, sentivi? Lo fa bene, però io non lo faccio fare, lo faccio fare con la piedina però, non col, col panino. Perché io la piedina, che gusto c'ha? La piedina è proprio l'ugherbab, la piedina è una specie spianata, che non è spianata, però ha fatto dentro il mio, mette una spianata, e tu si fa di accordo. Si fa colo, come ti va una gialla, compreso è? E questo manda la carri, di sa carri di tacchino e insomma che sia tacchino e vitello mescolato, no? Mentre che la cucina la tagliano con questa specie di cosa, una pietra, una taglia di beri, una cosa del genere, no? solo ci metto solamente la questa stanzina fatta da loro, se ci va, ma senza essere invadente, capito? Senza essere abbondante, ma prima di una cosa buona, per la di formaggio, ci metto la cipolla, dopo cosa di buona, l'insalata, l'insalata verde, buonissimo. Io l'ho mangiata anche io, dici. Cioè, dici, me l'ha fatto pagare 5 euro, e non mi sa fare 12. Una ladro, grazie, 5 euro mi ha fatto pagare il pane. Ma quale, quello di oggi? Sì. Che quanto paghi già? 3,50 euro. 3,50 euro? Ma sempre io prendo di 3,50 euro? Che me ricordo così. No, Gianni, io mi sembra... No, già costa così, già costa così. Io lo pago 5 euro quando rubo l'insalata, formaggio e carne di cavallo, punto, 5 euro rubato. Ma credete mi avrà un panino, ma voi siete esagerati, Ma io, Gianni, non è che sono un panino, no? Il discorso che hanno entrato sul 4.000 euro, non avevo fatto i controlli che hanno raddoppiato il fuori Brescia, ho preso il gruppo di conclava, mi ricordo che le bocche 1 euro, no? Deve essere 0,50. Dice che faccio quel controllo a finale, poi l'ho già fatto, non ho fatto proprio niente. Beh, il grande saluto c'ha tutte canti, l'aveva visto di grazie a un brutto di Mattesi, che ce l'ha costruito. Allora, non c'ha combinato. La ruina di tutta l'Italia, so. Che non sta bene. Come già? Ho sentito, no? Ma lui mi accusa. Prego. Avanti, sta smorfia. Grode, ma non ero io, aspettano. Ma capo Antonio, Gianni. Antonio Grode. Andai Antu. Aspetta un attimino, scusatemi che ero fuori. Sono fuori frequenza un attimino. Sono fuori frequenza. Ok. Stavo dicendo, non sono stato io a fare la respiro di sollievo. Eccoci qua. Sono completamente fuori. Completamente fuori. Adesso sono dentro. Ok, 27.105. Buonasera a voi. Già, anche io che passo da quell'altra parte della strada. Ciao Antonio, ben entrato. La sponda. Luca, ciao Gianni. Chi è che stava ansimando prima? Anonimo, ciao Antonio. Ciao Gianni. Se tu vedi come sto facendo, ti ricordi quel cordatore d'antenna che ho comprato? Cioè non puoi capire. Adesso è più nuovo di quando era nuovo, ma non, se non lo vedi non ci credi. Beh, ci credo perché anch'io rifaccio per lavori. Se ho fatto quel microfono che non voleva visto, era tutto consumato, L'ho aperto, ho pulito dentro, ho fatto tutto rinforzato, le cromature le tutte pulite, che si diventa ancora come nuovo. Ma devi sapere che questo qua, il lavoro che gli è stato fatto è questo. Innanzitutto gli è stata tolta, gli è stata riverniciata completamente, me l'ha fatta Fabrizio, e credimi, è un cavo di gesso, però verniciando è il numero uno, ha fatto un lavoro che non ve ne è perfetto, sai cosa vuol dire perfetto? Meglio di come era quando era nuovo, anche se non l'ho conosciuto nuovo questo qua, però per farti capire. Dopodiché sto togliendo l'adesivo, lo sto facendo ristampare, ti ripeto, più nuovo di quando era nuovo. Va bene, sono contento per te che sei contento del tuo acquisto. È la manopola. Quella è una cretinata, è la prima cosa che ho cambiato, io ci mancherebbe. No, assolutamente non sono minimamente contento dell'acquisto, che era una cagata, quindi una cagata. Non è vero che cartellino giallo. Però ne valsa la pena rimetterla a posto, perché se lo vedi davvero, cioè lo vedi, manca ancora qualcosa, però perfetto. Sì, no, era funzionante, funzionava, quello è un apparecchio che costa un po' di quattrini, perché è un apparecchio buono. Ma io sono un po' come te, cioè obiettivamente magari sono casinista, però mi piace l'ordine, capito? Soprattutto se una cosa è totalmente aggaggata non va bene, anche perché credo che i soldi che sono stati dati tutti validi, buoni, quindi non va bene, e che di fronte a determinate cose viene a futti e ciccia, e vai avanti. E vabbè, questo discorso è per me, cosa dovrei dire io? Dai, sto cercando di togliere una boccola, se no non riesco a modulare un attimo. Capo, avanti Gianluca, non ti sei trasferito ancora nel tuo QTH secondario? E allora? Vai! Eccolo qua! Non ti dà l'idea, no, che ci ha fatto un rito in chilo. Hai usato un camion? Cioè, il tuo matrimoniale già il letto singolo. Il letto singolo a ponte, quello che rimane in natura, che dopo fa più vano, no? Ti fa più vano. Ho capito. Ci sono anche quelli che escono tipo un cassetto da sotto e si forma un altro letto. Il suo è già. Ma c'è la lettera sotto, apro un garage, esatta lo letto e diventa matrimoniale, mando, dai. Ma fammi andare con un costume di sopra, dai. Ma se ti vuoi vedo stravaccare. Sì. Ma poi da filmarsi, soffro di vedere 10 macchinetti e poi le comandate a motore, che si vuole in strada. Avevo un amico mio, quello con le ruote tacchettate. Ce l'avevo un amico mio. E non piaccio io, un filmato. Da 3 cm cubici il motore, da ridere, a marce, 4 VD. E poi c'è la marcia del telecomando. Come ti c'è? Come c'è la marcia del telecomando? No, le marce sono sincronizzate. Come quello di velocità si mette la seconda, si mettono le marce, capito? È automatico il cambio. Cazzo, non vi grido. Non vi grido. Perché non si vede? Il motore è nuovo, c'è anche il motore di quello originale, il suo, quello da 2,5. La scocca della Jeep, di quella della Jeep del Gran Safari, quello lo puoi mettere anche l'altro tipo. Fino a saluti di chi sono anche lì. Quello della McLaren, Anna, e la Fabio Contazzini, e Giubati. Adesso non mi è rimasto a contattarmi, lo stavo tutto dicendo. Poi la rotta ammortizzatori, ciao, ogni prezzo c'ha 2 ammortizzatori. Non andrò più in bico. Sì, ma non credevo che non via me la trattava, no? E poi io sono andato a proprio nessuno, la sanità non sa che sarà più potente per l'armadio, per questa. Come lo usa? Esce il fornitore, esce, scommetto, vero? Sì, esatto. Dove vedevo correre le macchinette, me lo ricordo, passando col furgone, passando con le macchinette, ci rimavano tutti a bezzare. Sì, noi andavamo via, io, Antonello e gli altri che c'avevamo quella tipo, quella lì fuori strada, andavamo nel terrazzo, dove vivono qua via. E lo so, io mi stavo tutti facendo le gare, saltavo una montagna di sabbia, ragazzi, un po' che erano belle, e brincava nei brutti. Tu sei quello che gli stai facendo? Allora, cosa ti ha fatto il ghiacciolo di Gesù, perché si chiusureggia, no? Io ho fatto un carrellino dietro con due ruote. Ma lui ho fatto bene, no? E l'ho capottato. E cammina come se eravamo fatto una ruta, a quel ruoto dove camminavo. Si è rimasto di 40-60 metri, l'ho preso a faccia. Sto sviluppando appena appena la faccia da quella battuta torrata, brutti. Ah, allumirato. Ostiani sono. Io mettevo la miscela quella al 20% di litro lì. Tutti la usavano a 12, a 13. Mettiamo quella al 20%, ragazzi, la faccia anche la mattina, la faccia non la so se la fanno il promotore già. E lo grigli, se è tenuto bene, ma cosa ci mette in miscela, no? Un litro, è una cosa al litro, se c'è l'equivalente litro, come dico il litro con olio di vino, per lubrificare. Non so cosa gli ha di lei, ma non me la metto bene. Non lo ricordo, c'è ancora la tana, c'è aggiungo, una nuova. Però bisogna adattare, se no si dispiega con il tutto. Ah, grazie a te, mi sono costruito. Sono tutti, dai. Attenzione, le frutta. Fa il tasto, attacchi la corrente. Fa il tastino sopra. Se non ti riporta la cosa, ti pone in moto. Se non ti trovi da braccio, ti spiega, la cordicella. No, io ho visto quelle che si mettono sopra una specie di carrellino, le mettono, non vedono l'impulso. uno che gli dava l'impulso già. E la scatola che tu stiamo carrellino è un avviatore. E ce l'ho avuto anche io quando stavo con la strada. C'è un volano, che stanno sulla fuggi, che ha promozione e si mette a girare questo volano sulla scatola di gomma, che va a fare attrito sul volano attaccato della macchinetta, e la fa girare la mette in moto, capito? Ah, ecco. C'è tutto un ingranaggio all'interno. E ho capito, l'avviatore, poi si mette a caricare la corrente, così. Esatto, invece di attaccare la corrente alla macchina, attacca l'avviatore. Con un funzionamento dell'avviatore, gira il volano, fa girare il volano della macchina, si accende, capito? Quando si torna l'avviatore di una macchina, considera che la nostra macchina sarà sotto piazzata, no? E da allora la corrente sarà signore e fa girare. Lo sottolo, giustamente non dirà, l'ha fatto, però se solo per fatto la macchina, poi si è fatta. Ho capito. Adesso cose belle, un po' dispendiose, io ho visto al campo che c'è andando all'aeroporto di Alghero lì, fare un modellismo, e ti dirò di più che c'è un club di Porta Torres che va anche, perché ho visto club Porta Torres, eccetera, quindi lo so che sono. Beh, fatto sta che ho visto come mettono a punto gli aerei, fanno la messa a punto loro, tutta la carburazione, tutto quanto. Quando li mettono la benzina è la cosa più bella che c'è. Tutto in miniatura, piccolo piccolo. Sì, bello. Ma guarda anche io. Pronto, mi è stato un appassionato. È un appassionato di come dare buttare i soldi. Una cosa è la macchinetta, con tutto il rispetto, una cosa è l'aereo, che ogni volta che lo fai atterrare vedi 500-600 euro che stanno, oltre a 3 mesi di lavoro, che stanno arrivando a una velocità di 80 km orari e devi beccare la pista. Lo sai cosa vuol dire? E insomma, ti faccio una pratica, l'elicottero, con l'aereo sto dicendo tu, cazzo l'aereo è difficile, l'elicottero è stesso bello, il nostro tratto, questo qua, era... Cosa mi dai tu? Mi sono mosso il track americano e una bicchia, mi sono abbastanza allucinato da alcuni piedi. Io ho avuto l'angusta dei carabinieri, mi sono fatti mille pezzi anche. Ma chi? A me, un atterraggio sbagliato, boom, e la butta del quadrato, con questo elicottero così bello si illuminava tutto. L'ho fatto andare in alto, tutti si sono fermati a guardare, cazzo, poi non ha preso più la frequenza, cazzo, se va da piccolo. Ma tu io? Allora. Ma non hai fatto quello da lì, ma l'avevo preso dai cinesi, dico la verità. Parla di quelli grandi, l'avevo pagato 63 euro, mi pare, una cosa del genere. Però andava bene, mi avvolava anche un beato, solo che ha perso... Dicevo il collegamento già c'è il comando per l'aereo, non prendeva più la frequenza, cazzo, se andavo lo comandavo per calare piano piano, cazzo, e se fai da razzo di Mattesi, tutti, cazzo, ho fatto così, peccato, e vabbè, magari si può aggiustare, cerca di consolarmi. E vabbè, non ci vorrebbe una bomba io, dico la verità. Mi sono sempre piaciuti, quando ci ho preso la mano, cazzo, poi mi fidavo troppo e mi fruttia. In casa, mobili, graffiati, mia moglie, cazzo, per poco mi uccide. E tu a scoppio o a elettrico? Sono negativo, a scoppio, ma con tutto il rispetto già, quelli là non sono elicotteri di giocattolo, nel senso che... cioè un elicottero, se vai a comprarlo, costa una barca di soldi e i comandi sono completamente diversi. Pilotare un elicottero è difficilissimo, perché devi avere una radio minimo a 7 canali, minimo, perché devi, mentre quello lì c'è il giroscopio, come si dice, quelli che compri dai cinesi, quelli che trovi in edicola, perché sono fatti proprio per far sì che tutti possano pilotare, e allora sono molto più semplici di un aereo. Però se prendi l'elicottero quello vero, i comandi sono al pari di quello reale ed è difficilissimo. Io ho un filmato dove una nota persona sassarese che lo sborone si aveva comprato questo aereo del 118 degli anni, non era, era del soccorso alpino, se non mi ricordo bene. Tu immagina, ti simulava il rumore vero dell'elicottero. Morale l'ha tirato su per 5 metri, 5-6 metri a terra, poi si è cagato, ha mollato la manetta, questo elicottero ha rimbalzato in terra e si è completamente disintegrato. 4.000 euro. Tanto io ho visto la rappresentazione che hanno fatto lì a Campo della Torre, sono andato per due volte, è la prima volta che sono andato, praticamente questo qua stava facendo vedere questo aereo turbo, un caccia di quelli grandi, non sembrava manco un modellino, era enorme, però ha detto che non ce la faceva a prendere la velocità, ci voleva più campo, cazzo l'ha messo in moto, cazzo gli sventolava i pantaloni, la turbina, fatti un gol, gli sventolava i pantaloni come lui era dietro, cazzo gli sventolava, c'era la turbina potentissima, il rumore è uguale identico a quello dell'aereo. E poi ha volato questo tipo con l'aereo suo, cazzo, ha fatto volare tutto quanto, faceva delle belle virate eccetera eccetera, a un certo punto ho detto ma so cosa gli è successo, lei gli ha dato forse il pubblico, cazzo, lì se l'ha abbassata, ha preso la rete in piedi, cazzo, tutto il fasciato. Salita, ma è normale che non ha preso gente, cazzo, poi ha sfasciato le macchine che c'erano fuori, perché ha oltrepassato la rete, c'erano le macchine parcheggiate fuori, ma era grande lì, entro Gianlu, non era piccolino, no, quello lì che stava volando. Quello, il caccia, boh, cazzo, era una cosa incredibile, faceva il rumore tutto dell'aereo, le turbine fischiava, ci ha fatto sentire un'accelerazione, però era una cosa impressionante, dove tappare le orecchie, come un aereo vero. Sì, lo so, qua su YouTube ogni tanto, che io ogni tanto me li guardo lì, ce ne sono che sono grandi quanto una macchina, me. Grandi come una macchina. Tu non la vai tu. Ma io ho notato che qua più o meno abbiamo tutte le stesse passioni, vabbè, io l'ho fatto a livello di poveraccio, Andrea l'ha fatto diciamo più professionalmente, il fatto dell'elicottero, però tutti due l'abbiamo fatto, il fatto della fotografia lo stesso, abbiamo tutti la passione, anzi io un po' l'ho persa, prima ce l'avevo davvero. La fotografia, quasi tutti gli stessi hobby ci abbiamo. No, non è che l'ho fatto da riccone, è che la verità prima non esisteva, quando facevo io questo tipo di hobby non esisteva, non erano ancora entrati i cinesi con questi elicotterini, se no sicuramente avrei fatto queste cose. E poi io non ho mai avuto l'elicottero, sempre avuto l'aereo, ma perché li costruivo dalla scatola di montaggio, capito? Non erano ready to fly come sono adesso, nel senso pronti a volare. Ti partivi da una scatola dove col traffolo ti dovevi fare tutto, e credimi che vederlo schiantare in pista ti mettevi a piangere. E tu questo onere hai avuto? Questo che cosa? Questo onere di vederlo schiantato. Sì, grazie a un testa di nulla che mi aveva dato dei consigli sbagliati. In breve, non avevo messo una guarnizione, o meglio non l'aveva messa lui, una guarnizione che c'era fra la marmitta e il cilindro. No, le vibrazioni che sono altissime hanno fatto sì che la marmitta si staccasse, che non andasse più in pressione, il motore non avesse più compressione. Quindi come è andata, tu ricordati che dell'aereo due sono le fasi critiche, il decollo e l'atterraggio. Era in decollo, ha perso potenza, a un certo punto non riuscivo più a tenerlo, ho cercato e schiantato, fasciato. Diciamo che la guarnizione del collettore non è messa. Bravissimo, bravissimo. E non essendoci non ha tenuto la vita, capito? Si è allentata subito. Cazzo, un danno micidiale. Prigionieri si chiama. Prigionieri della marmitta. Esatto. Ma lì non è prigionieri, lì c'è le molle, lo sai, no? Cattivo. Vabbè, il prigioniere di solito è un termine che viene utilizzato per qualcosa che blocca la testata al cilindro, oppure realmente sono quelli che tengono proprio il motore collegato all'aereo. però sì, si possono chiamare anche prigionieri. Comunque no, non avevamo letto, era proprio ancorato, doveva essere ancorato molto bene, però chiaramente doveva avere un infra, diciamo, un infrapezzo che serviva a far sì che le vibrazioni non si propagassero alla marmitta. E che si è reso lì anche? L'ho riparato, quando gli aerei realmente li fa in scatola di montaggio, che non sono di questi cinesi, si possono completamente riparare. Ci vuole tempo, ci vuole gana e mettersi lì dal giorno dopo o traforo, ma è che a parte figura mingrina che ci fai, pieghi tutto e te ne vai a casa, a meno che non vuoi vedere gli altri volare. Ti faccio vedere i filmati di aerei schiantati, ma aerei, come si dice, doppia ala, micidiale, cioè tutte cose che costano una barca di soldi. Tanto è vero che ho interrotto perché tutti questi soldi non ce li avevo. Non si chiama quella doppia ala, biplano. Bravissimo, oggi non mi vengono i termini perché sto, mentre parlo con voi, sto smontando questa cosa, quindi sto pensando e facendo. Cazzo, anche la barchetta io, elettrica, ha due motori, quella va, le produzione del riva. Quella mi servirebbe, Bubi, per portare la mente all'albero. C'è quella, una di legno da farne, che non l'ho mai fatto, la fa a Napoli, mannita, poi si possono anche installare i motori, sono la mente anche per bellezza. Io. Dell'elicottero, ma te che mi fa delle acrobazie, tutto un armadio giù giusto, che se devo che non in casa, so che ha, cazzo che un gatto con ferroviario, si ha fatto un video. A me piacciono molto i velieri, sia in quadro che in modellino, Ho visto questo veliero, era una cosa fenomenale, bellissimo. E poi ho visto un peschericcio che era ancora più bello, enorme, fatto un bel grande. No, un pescatore di stintino che sarà morto e... Anche questo qui si accendevano le luci, giravano i motori della rete, tutto quanto funzionava. Bello, cazzo fuori di capo, Questo è dove stava Gianluca. Andiamo a Torre Falcone lì, dove abbiamo un negozio a fianco, che la moglie era anziana, non so se li conosci. E un giorno mi ha fatto entrare, ha detto, già vieni che ho finito una cosa, te lo farò vedere. Cazzo, voleva 3 milioni allora. Poi l'avevo messa a 7 addirittura, perché dice che il prezzo valeva di più perché ci aveva messo un motore per le reti, tirava tutto, c'erano i gommi dentro, tutto l'altro, era una cosa per me, si accendevano le luci. È un travaglio di matrocca, non lo rompe. Ma si è pinta davvero, nei minimi particolari l'ha fatto quel peschericcio, cazzo, proprio qua, tutto ancora, cazzo di bussoli, tutto, va via tutto, tutto quello che c'è quello vero c'è quello lì, c'è quello anche il rullo per far girare le reti in miniatura, tutto quanto, si muovia, ti sto dicendo che era una cosa allucinante, dice questo qui ci ho messo un bel po' di tempo a farlo, Però l'ho fatto dalla mazzetta, tutto io. Non ricordi quel veliero grande che c'era al distributore, giù, da Carlino? Sì. Capisco, ma te sei bello, vero? Sì. Però era un po' abbandonato, cioè, un po' grigio era, nel senso che non gli davano risalto. Forse volevano i contrasti di colori, con gli uri, le cose, i bronzi, queste cose. Quello se tu lo vedevi come era fatto, proprio come il peschereccio era bianco e azzurro, i tipici colori del peschereccio, bianco e azzurro, la gabbina, tutti quanti gli obblighi che lavoravano sopra, tutto qua, era cazzo. Ti ha detto che solo per fare quegli obblighi quella cosa ci ha messo roba di un mese. Ha fatto tutto, E in più c'aveva questo veliero, il veliero mi ha detto... che sui 2000 euro lo davo, era bello, me l'ha fatto bene lo stesso anche il veliero. 2000 euro lo davo, ma il peschereccio era una cosa che ti devi aggruppo, che povera mano, ma proprio un bello grande. Oggi non si è sentito nessuno oltre voi? No, io non sento, l'ho trovata benito a Porto Torres, e mi ha detto che è un casino, che ha detto di entrare, ha detto ma mi ha telefonato anche Claudio, ma glielo ho detto che c'ho la campagna, e la campagna ha bisogno di essere tenuta, poi quando finisco sono stanco, non aggiungare. Ecco, te tanto. No, non si è sentito nessuno, perlomeno, a meno che ci fossero presto, io stavo lavorando, quindi non so. Vabbè, ma sei in ascolto anche su altre frequenze? Vabbè, sono. Affermativo, no, niente, ripeto, io adesso sto un attimino cercando di togliere, mi stavo anche innervosendo, non riesco a entrare una boccola. Un attimino rimango conferma e riprendo subito. Ma dove va a diventare questa boccola? La boccola che serve a far girare è una boccola in plastica, capito? Se no si deve smontare tutto. Allora sto facendo piano piano sperando che ne esca. Allora. Ma ne va parecchio, no? Ma voi per di già lui. Sì, c'era una boccola in testa. Secondo me sei in gatto al verino, se c'è una dei suoi boccoletti. Masso di Riccardo, secondo me non credo che si faccia. Deve avere la consistenza già della boccola. Posso essere anche l'ottone. Secondo l'impiego che deve fare è anche il totolo, molte volte è robusto anche perché resiste anche a umidità e balle polvere. Ma è sempre un materiale plastico, eh? Non è mai come quello di un po', per dire, un po' è più resistente. No, non ti credi, non ti credere già. Il tono tende anche a consumarsi, Il teflo, sì, ma secondo me è più resistente il teflo. Beh, allora io avevo il rubinetto dell'albero che perdeva, è venuto l'idraulico, ha portato a dire poco 2000 guarnizioni. Beh, non mi era una che andava a alla fine ho detto, mettiti una girata di teflon, no, ma che stai dicendo? Vado da Erdo, vediamo un po' se ci ha portato il rubinetto, e non ne ha trovato. E quello di Erdo stesso gli ha detto, fai un giro di teflon, se quando lui dura, lui ha giù roba di 5 mesi così, e va a meglio di prima. Che cos'è? Per tutte le cose bisogna avere l'impiego, cosa deve fare, dove deve tenere, temperatura, o deve passare, lì ci passa del gas, ci passa del liquido, ci passa una pressione, tante cose so già, non è? Ogni cosa c'ha il suo impiego. Beh, questo è ovvio, anche se ci sono delle cose vanno bene per una cosa e per l'altra. Ti faccio un esempio, il tubo della miscela, quello che si usava nella Vespa, quello del carburatore, quello lì, quel tubicino lì, io l'ho messo più di ce l'avevo ancora di quelli quando c'avevo la Vespa, l'avevo rotto e mi è servito per fare una cosa e via. Ah, di quel tubicino lì di gomma, una pompa normale quella, non ha bisogno di niente perché è accaduta al serbatoio in alto che per inerzia la miscela non fa pressione ma va caduta, capito? Quindi non ha nulla, comunque quando si rompe se lo sostituisce perché è secco, perché magari con il passare del tempo si cristallizza, diventa tutto che la palla, un peso magari si spezza, e lo cambia solo esclusivamente per quel motivo lì, non per altro, Non lo so come l'ho utilizzato, l'ho utilizzato per i compiti del cristallo della macchina. No, l'ho utilizzato per il compressore, diciamo, l'acquario, quello che faceva le bollicine. Gli ho fatto tutta la tubazione e l'ho fatto uscire dalla bronca, le bollicine, capito? Ho fatto tutto sotterraneo, l'ho fatto tutto sotto senza che si veda, sotto la sabbia, e gli ho fatto le bollicine che escono dalla bronca. Sì. Però si generale, sì, è bello. Sì, ci sono cose che si possono anche usare per alcune più cose, però come dici tu ci sono cose specifiche per ogni cosa, per dire una vernice per la manovra, se vuoi una vernice normale si necessita l'altra, io la vernice per l'alta temperatura. Pegando bene pulista, pegando bene. Ma io l'ho verniciata perché l'ho caduto e l'avevo graffiata la marmitta, ma sono graffiata, l'ho verniciata, grazie a Dio non è mai uscita. Sì, le cose già vanno bene già. Quella vernice lì è a 600-800 gradi, mi sembra che resiste. Era una vernice fortunata che non scalda bombe. Ha messo quella volta a temperatura. Noi non c'è bisogno. No, ma l'ho fatta bene. Era opaca come... non è lucida, capito? Opaca. Era opaco, era opaco. Anche perché quando scalda l'opacità non ha senso farla lucida. Perché tanto oggi, domani questa opacità, hai capito? Noi ce la fanno già opaca, così rimane così. Comunque la ragione del tubo, lo sai che se sei cattante facendo passare l'ossigeno, si è diventato duro, duro, duro, duro. Infatti l'ho cambiato, la seconda volta gliel'ho fatto l'impianto. Sì, già, è normale. Il tubo ci mette magari in acqua rispetto alla benzina, però anche quello dipende a indurirsi così, dottore. Magari se non lo tocchi non succede nulla, magari se vai però a manipolare, si potrebbe pensare. Fatele una cultura. A tablet porto la macchina e le faccio fare il cambio pennone, il filtro e le candele. L'ho portata al fornitore del lancio più vicino a casa, la mette sul ponte, apre il coperchio del filtro, perché gli ho fatto cambiare anche il filtro dell'aria e cose. E a un certo punto vengo un cazzo del liquido radiatore a fare gli affiuti. Dice, ma questa macchina perde liquido. Come perde liquido? Grazie, sconfuso. Se non c'era una goccia, mi sono fermato quasi un quarto d'ora qua fuori, aspettando un altro di uscire. Non c'era una goccia. E qui l'ha sfasciato sicuramente qualche cosa, togliendo il tappo. Abbiamo guardato e l'ha rotto. Quindi noto che c'è che entra praticamente in plastica. Quello che entra praticamente del liquido radiatore. Si è spaccato. Detto, sono cose, e poi è rimasto il petto dentro, guardate che ci sono rimasto un pericato di due e ve l'avevo detto dentro. E probabilmente si è spaccato, però sono andato al meccanico a vedere cosa dovevo fare. E mi ha detto che succede perché si seccano e si spaccano quando vanno le cose del filtro, dell'aria, come muove appena appena si spacca. E allora ha dovuto, guarda, con un cacciavite cercare di toro, prima con le pinze ha cercato di allargare, di beccarlo, il coso, va un casino, sono tre ore che di con l'aria, togliendo fuori i pezzi che rimanevo, eh. Alla fine poi questo meccanico è arrivato, trovato uno, però invece che essere in plastica è in lega. A te ho finito, se ti do questo qua. Io non mi ho fatto, penso te che vada bene, gli ho dovuto fare di nuovo la fettatura, perché grattando col cacciavite gli hanno rovinato anche la fettatura, non me ne incazzato la di guarda. No, io da questi per via della presa, e peggio ancora, invece bisogna soffermarsi e ragionare bene, cosa bisogna fare, qual è l'operazione che uno deve fare per eliminare il difetto e il minor tempo possibile. Sì, bisogna stare attenti, mano a mano, non fate di cose, si vuole guai, ma quella guai, ma tutto la ve, mi cavo lì, cosa tocca, tocca non tocca, tocca il vasiglio, va di taccio. Ma sicuramente gli si così il vostro valore meccanico, non è che mio figlio ha vissuto il furore. No? Anche perché si fa qualche cosa per lanciare di mano e sapete cosa deve fare. Ma insomma non accade che si paga la manopera, cioè invece che fu un'altra che fa pagare solo lui e fitto e buco. Io ho un amico, mi disse la macchina ti serve la lingua, c'è che cade a motore come che te la fa pagare. Io ho provato sempre usurai come meccanici. Che se non si dava, ragazzi, no, ci ha mandato 340 euro, ho fatto un tagliato, ci ha mandato una lampadina, filtri, questo e quell'altro, ha fatto 350 euro. No, oh, gli ho detto, basta, non ne posso più. Oh, allora, guarda, quando hai la macchina in garanzia, per non perdere la garanzia, anche perché in 24 mesi ti potrebbe succedere qualsiasi cosa che, secondo come, ti risponderà la casa costruttrice. Però devi buscare a fare tagliare dai, ma dopo 24 mesi cerca un meccanico di fiducia, un amico comunque sia, o chi per lui, però sempre persone, una persona onesta, comunque sia, via dicendo, tanto non ha senso portarla. Ti dico un po' di più, quando vivi a 1000 chilometri, ho dato il gatto è, me la porti, quindi sì, l'abbiamo fatto, non ho levato un cazzo, anche un esiste da 1000 chilometri, ti chiama di luce, assolutamente. Quindi la chiama di battere il bagaglio, non ho levato proprio niente. Io ci gioco, infatti. La candela si chiama Lucia per dicono che te l'hanno cambiata. E la gattuccia, ma che c'è della giambata? Ma una volta era segnata, ha fatto un graffio, la giambata, ha detto, ma tu giambata? Sì, la giambata, come tu mai no, capello, ma te sì, lo so che l'ha giù fatto, ed è ancora in chivi, la gattuccia. Riccardo. Oi. Che t'ha detto? Che ha detto, ma te ne vedi, sì, ma te ne vedi, sì, c'è un cavolo che mi vedi. Fame morto, così è. Sai cos'è? Che l'Opel è una macchina particolare, c'ha dei pezzi e non tutti ce l'hanno, capito? Non si trovano i pezzi anche che non sono originali, queste cose qua, tranne qualche cartella tipo lo specchietto, come l'ho preso da una barra rotturata, libra tutto, cazzo, la migliore pezzi sono originali. Lo può comprare, lo specchietto che non era originale, però... Perché una macchina è passata sulla BDV, questo qui era col telefonino, cazzo, una lampada dello specchietto. Si è fermato un metro avanti, da quanto era sparato, io ci sono andato a piedi, e ho detto, bravo, cazzo, invece di guardare, fare la corsia degli altri, per poco non mi faccio il culo la macchina, anche lo specchietto. Se la fermata pure, mi pigliavo in piedi. No, quella volta sei tu che ti sei sbattuto a me, io. Guarda come fermo la macchina, che appena ci vuole 30 km di distanza, che era tutta quanta sulla destra. E lui ha detto, vabbè, detto, comunque torna indietro, che mi dai là, se ne è fuggito, cos'è? Tu l'hai tu. Non me l'ho preso perché si era fermato, quindi pensavo che fosse la persona del messiere. Sono andato... Ho detto, guarda che ti aspetto lì dello spiazzo, che se tu sei in mezzo strada qua non va bene. Ma non metterci la macchina con lo spiazzo, ho detto, e ci scambiamo i lati. Va bene, aspetta che giro. Ma già è tardi, lo vedi, io dovevo andare a lavorare, ho detto, beh, va bene. Ho guardato, non c'era lì, cazzo, se ne è fuggito. E c'è andato a fare lo specchietto, mi stavi dicendo? L'ho fatto tirare a Roberto, l'ha pitto. Però non avevo detto, sì, sì, non c'è problema, l'ho piazzato, tutto quanto, e vibra tutto, vibra, un bel ballo, quando cammini con la macchina vibra. Ma adesso che vai tuttora? Sì. Ma che te la fai tu io? Ma originale? No, è di quelli contraffatti. Concorrenza si chiama, di concorrenza. Sì, lo so, ma è apposta contraffatto. Ma cos'è elettronico? Era la regolazione manuale? Manuale. E allora può darsi che siano quelle molle che magari quando le piazzato c'è qualcuno che magari si è accavallata. C'ha tre molle, tre o quattro molle sono tipo fatte che quando muovo quel coso lì fa tutti quei movimenti, hai visto, come un burattino. Come ci sono giusti. Bravo. No, non si è accavallata, ma l'ha controllato anche il carrozziere. Quando me l'ha controllato, me l'ha stretto, c'era un po' mollato. Me l'ha stretto, ma mi ricordo che l'avevo stretto bene, non ci si molla, boh. Ha stretto bene, non si muoveva più tanto, ha trovato l'inghippo. Invece dopo un po' di tempo di nuovo, cazzo, fai che ti rimane da un momento all'altro, ti vibra tutto quanto quando cammini. Io andrò a vederlo, Gianni. Se adesso si hanno da mettere all'entrata le dita, la bisogna mettere le fare la filetti, le viti. Ah, raga, e magari come cammini si mollano, capito? Ma non me lo faceva prima, capito? Erano proprio bloccati gli specchietti, non si muoviano un millimetro. E la prego se la finito. Tu, fatta ce l'ha infilata, no? Fatto un coraggio di sì. Ma un po' quello già ne è uscita. Il problema è che che adesso sto svitando un'altra cosa, una rottura di balle che la metto a parte. Le cose sono mezzo masturbate e escono proprio male, capito? Non ho capito ancora che cosa è essere svolta. Siccome devo rifare l'adesivo della facciata, sto smontando tutte quante le cose, come si dice, le rotelle, le manopole per, siccome c'è una specie di spinetta laterale, non riesco a toglierla perché è mezzo smanata. Elevando tutto il frontalino? Affermativo. Però ho trovato questo raccordatore, stavano incrociati. Dove c'è tutto, dove sta smontando? Cosa andai, no, molto più in alto di quello. Gli hanno venduto, ma siccome lui opiniano come me, sta felice di quella felice di Pupil, che sta cambiando la scritta, tutto l'altro. Beh, sono superfatti, se sono in quelle telegrafate che sono incise, poi non casino. L'adesivo. No, negativo, è adesivo. Adesso lo porto dal grafico domani mattina, che c'è, lo scannerizza, gli cambia il colore, lo rifà, lo voglio fare blu elettrico. Blu elettrico e dopodiché, perché il tappo me l'ha verniciato Fabrizio, ma lo devi vedere. Devi vedere, è meglio di com'era nuovo, immagino. Facciamo voletta, ma tu devi vedere come io faccio. Non c'è una goccia, non c'è. La goccia di quale hai fatto? O goccia d'aranzo? No, l'ha fatto, sembra bocciardato, non so se ce l'hai presente, ma hai fatto, hai presente come sono quando è nuovo? Uguale, preciso. Preciso. È nuovo. Un po' ruvidi, che abbiamo plastificata la vernice. Bravissimo. Sì. Quello se vuole puoi fare anche tipo le vecchie radio di una volta, non so se ti ricordi quella carta da zucchero che è martellata, ci sono anche quelle. Avevo fatto un lavoro di una vetrina di uno studio fotografico, ho fatto dei cassoni costruiti e dopo riverniciati con questa vernice martellata. L'avevo voluto color oro, però c'è di tutti i colori, c'è verde acqua, c'è blu metallizzato, tipo le carta da zucchero, che sono quei colori che si riproponevano, tipo il Tokai, ti lamenti Gianni? Bella. Sì, quindi c'è martellata, si chiamano infatti, poi c'è la policromata, c'erano tanti tipi di vernici, da Fernando Montesio. Cos'è? Come le fate da Fernando? Ah, non so, ma li ha messi di dirlo a Gianni, o Antoni, Chivi. Fernando Montesio, non lo conosci? Ho fatto altro, infatti. Ma ho fatto altro, Antonio ho fatto altre cose, ma non della cosa, da lì ce l'ho fatti. Ah, ho capito. Ah? Buono. E lì, via Pressacchi. Ho capito, che era bionda. E là la nipote la tua deve fare. Devo vedere, lì c'è chi da quelli per gli scuri, però. Ah, capo. Ma quella che si fa le foto in pose, cose che le mette in vetrino. Quella è la nipote. E là è la sorella di un compare. Chissà di cui si è nascita. La padrona è l'altra, rimane mora. Ma lei non è la padrona, lei è una commessa. Sì. Non pensavo che fosse la proprietaria. Sta parca. Bella ragazzi. Oh, yeah. Sì, ce ne sono cose da fare per trovare originalità e anche un design magari tutto più personale. Sì. Quell'effetto lì è proprio è il migliore che ci sia. Quello Martella. Riga, no, che rimane brugoloso come i tappi delle radio. Ho capito, poroso. Metto i motorradi però. Sì, perché sono anche antiscivo, l'ho capito. E come si fanno quelle vicini? Quello è tipo della pernice anche, capito? Tipo anche della pernice. Magari non ne pago un atterrombo, puro. Non è l'ungelo dello spunto che si prego, no? Sì, potrebbe potrebbe anche essere anche un gioco di regolazione di pistola, e in più con la, anche tipo la vernice che non sia troppo liquida magari, che è leggermente più densa. E bisogna fare delle prove già comunque sia, Io non ho mai fatto quella roba lì, ho fatto quella martellata che c'ha quell'effetto lì, ed era per fare quella prova lì. Ma bisogna che anche lì mi procuro, vedo un po' quello di su cosa, vedo un po'. Quando appunto a mio compagno mi posso dire un attimino tipo degli effetti, no? E lui che te lo dice com'è, come non è. Ma anche per l'effetto, capito? Per rimanere proprio, non dico magari preciso preciso, però che si avvicini. Beh, tanto. Ai. Ai. Tanto. E tanto non so io arrivare impegnati. Beh, a che punto sì. Ma state vedendo solo la marca oppure tutto il frontale? Adesso non mi ricordo se era adesivo tutto il frontale o solo la marca. Tutto il frontale, soltanto che non riesco a togliere una brugola di una manopola. C'è vicino, anche se te lo devi sacrificare, prendono questa cacciavettina di orologiaio se ce l'hai anche tu, e se non entra piano piano glielo limi e fai in modo che entra dentro quella vita esagono, sicuramente sarà anche un grano, una brugola, così è. Cappa, è quello che sto cercando di fare. Dai un attimino, vi sto ascoltando un attimo. Quelle brugolette lì quando sono così un po' pezzotte, oppure magari le stringe a morte, gente che le stringe a morte, cazzo la strana come i grani delle antenne. I grani delle antenne quando stai l'antenna per colpere stazionari. E gli altri grani gli stringi un po', se la quelli capureccia e lei come cappa a fondo, e poi cazzo non esci più. E si va che gli diventa dura appena appena accuscio. Non ho bisogno di finire la muse. Sai come ti ricordi se ti finire la mamma da voi? Come è successo a mia moglie, ho bucato a Urbia, stavano intorno alla da Urbia, ho messo il Sassari, era appena uscita da Urbia, a buca, guarda cambiare la gomma, vabbè io non riesco a cambiare, praticamente fermata a uno, la stava cambiando ma non riusciva a guardarla. Non ce l'ha fatta in nessun modo, basta fare dei bigli a mollare. Sì, già, qui siamo attesi di rotte di rimacchine, di bulloni, di rimacchine, non si sfigli la mossa, perché non si può rimanere mollare, perché gira nel senso che gira la ruota. Sì, ma erano scritti a morte già lui. Sai che cosa gli ho dovuto consigliare a mio cognato? Ho dovuto andare da Urbia a mio cognato, metterla dentro un rifornitore, la macchina che era due passi. Avevo consigliato di prendere un tubo lungo, di metterlo nella chiave, di fare forza lui, ce l'ha fatta. E una leva già, è logico. Sì, ma non si frega la morte, perché sta costruendo i bulloni nel senso di ruotazione della ruota, capito? Quindi non si può trarne mai mollare. Come i colpi li ha dovuti fare con una mazzetta, lo sai, non mollare, a chi non mollare? Una mazzetta, diciamo che in quelle cose lì ancora magari bisogna vedere, ma non è che si usano in meccanica queste azioni così, capito? Preferibile con il tubo magari, un po' di ossidante, diciamo così, tipo il CRC, il V40, quello che sono gli autosbloccanti, no? Che sicuramente saranno occulti, saranno incolti magari da chissà tanto tempo che non si mollava neppure, già lei si sono, la ruggine l'ha fatto la guarnizione, l'ha frenati. Ma hanno qualche colpo sopra il tubo, allora l'ha sbloccato, capito? Sì, lo sai perché? Perché praticamente quando le dai i colpi, praticamente li scroppa appena appena. Hai visto quelle pistole pneumatiche, quelle che hanno i gommisti? Quelli sono, non è che vanno a svitare, no? Quelli c'è un martello, fa tu, va a smettere e allo stesso tempo fa girare, a mollare. Tipo percussione. Sono quelli girando, sgattando e girando, capito, esultando. Poi diceva, più vado a costruire e mi lungano. Esatto. Però quando ti trovi in strada si non vanno già a croci. Io sempre mi sono disimpegnato anche a croce, sempre ce l'ho fatta. Diciamo che fa più leva rispetto alle classiche chiavi che danno in passione la casa costruttrice, dai, della macchina, paghi la chiave a L, cioè la chiave di vano, la chiave a L, cioè con fa la bue, allora la manco lunga, giù la poni un po' di lungo, si pone in piedi, piano piano, si condureggia, tutto, magari riesce a mollarla. Provi a giovanizzare i gradi. Perché a volte come tu vai a fare cosa te ne esce il furo, ti brinca e ti fai arrivare. No, ma con la croce, ho appurato così, con la croce, allora da poco mi ha telefonato la gatta di mia figlia che era sulla BMW e non riuscivo, l'hanno buccato e non riuscivano a mollare la gomma. E ci ho andato io, c'è andato con la chiave a croce, tratti, come tutti, mollato la gomma, ci ho andato via. Nella mia radio regalati si chiama Croce, non lo passavo mai. Nella mia, quando avevo la macchina, avevo la della Croce in macchina, la stessa. Sì, sono... Addirittura c'è adesso, secondo la chiama Croce, no? Perché se le chiama Croce molte volte trovi anche il bullone che ti manca, perché nella Croce c'è appunto la bussola, quello che una 17, altra 19, via dicendo, però molte volte non è così. Allora l'hanno fatto una che c'è un intercambiabile, come la diceva Cricchi, no? Con la scheretta, e tu ti prendi le bussole di diverse misure e te le metti lì, se capita un bullone che è più grande, più piccolo, ti apre la bussola, perché va in castro. Comunque quando ce l'hai è sempre meglio, perché con le altre chiavi devi avere qualche tubo lungo per fare leva, se no non ti la fai. Comunque sia, io sto travagliando a fare l'ombra lì, si però, Vabbè, ma mia moglie era sola col bambino, stava attorno alla rubbia, era dal fratello, e meno male che il fratello era una passi. Infatti, proprio così. Sì, è tornata a Venezia, sono messa in chimio e domani è andata con un meccanico, con un gommista, ci ha portato il furgoncino con i materiali e ha permesso la pistola all'aria e partita subito. La smontata e via. Però intanto devi disturbare, devi rompere le altre ragazze che lavorano. Antonio ascolta, non riprende, sta cercando di farsi il sorellino, lui si scopre da noi, che non si approfitta. Si approfitta di Vegani. Uff, me ne esci da ragazza, come si vuol dire, però alla fine ha vinto Dio Grodde, è riuscito finalmente a salvare Capri a Cavoli, adesso finalmente lo posso staccare, domani lo porto dal grafico, glielo faccio fare palo, glielo faccio blu elettrico, dopodiché gli cambio anche la lampadina che si deve essere fulminata. Guarda, credimi, gli ho fatto un'opera di bene a comprare questa cosa, basta. A tu, quella apparecchio lì è buono come apparecchio, è un apparecchio americano che pare, costa un bel su. A tu, non è un apparecchio, uno strumento. Mi sono allontanato. Sì, no, già lo so, però ogni qualsiasi cosa, se tu pigli un Ferrari, ripudi un muro e diventa una carcassa anche lui, non vale più quello che valeva quando l'hai comprato. E lo vedi adesso sì, metterà uno strumento, è un coso, come si dice, un accordatore che ti accorda anche un cacciavite. Se ci metti un chilo d'arrugginito ti accorda pure quello. E che modello è, Anto? È un VC300 di DLP, un Vectronic, ed è un apparato americano. Oh. No, negativo. positivo o negativo, cioè solamente l'illuminazione, no, è, diciamo che top o quasi il top della gamma di quelli analogici, non digitali, capisci? Quanto c'è di tenuta? Un kilowatt? No, negativo, fa tutti, tutto l'HF con 300 massimo. Affermativo, scusate che sto staccando questa frontalina un attimo. Che hai visto Culileo? Perché ti seguo, Avanti. Gianni, Luca ci sei? Infatti sto chiudendo. Ci sentiamo domani se coincide, fatevi un buon 144. Mi sa che manco 10 minuti in ascolto, dopodiché vado in QRT. Vi saluto, buonanotte, ci sentiamo domani, dai. Ciao Gianni, ciao Luca, alle prossime, ciao eventuali ascoltoni, ciao. Tanto, buonanotte. Buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte, buonanotte